Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Avete presente quelle cose che si dicono sull'imprinting, no? Beh, è tutto vero. Brad Pitt mi stava tutto il giorno attaccato e quando aveva paura mi saliva di corsa sul braccio per poi addormentarsi tra i capelli. Abituato a stare in casa tutto il giorno, dopo un po' Brad si convinse di essere un cane. Mi chiamo Paola Battaglino, abito in un piccolissimo paese che si chiama Roalbasse, in comune di Sedico, in provincia di Belluno. Sono sposata, ho due figli ormai grandini e lavoro in una casa di soggiorno per anziani. L'imprinting è un particolare tipo di apprendimento per esposizione, presente in forme e gradi diversi in tutti i vertebrati. La parola imprinting deriva dall'inglese imprint, cioè stampa, ed è stata coniata da Conrad Lorenz per definire una particolare modalità di apprendimento che può avvenire solo nelle prime ore dopo la nascita, entro le 36 ore circa. Ringrazio Margherita che mi ha stampato al volo questa pagina per capire di cosa stiamo parlando oggi, cioè di cosa parliamo quando parliamo di imprinting, visto che la puntata di oggi è dedicata a tutta quella, tutta a questo argomento di fatto, cioè a quegli animali che in qualche modo sono entrati nella vostra casa e nella vostra vita e sono diventati degli animali di compagnia, senza però esserlo abitualmente. È vero che noi abbiamo un'immagine abbastanza ristretta degli animali di compagnia, no? Perché pensiamo solo a cani e gatti, per lo più, no? Animali d'appartamento e da compagnia. Per cui poi sono mitologiche le storie dei due, ve la ricordate, sapete tutti, no? I due, la coppia che va in vacanza in un posto esotico, alle Maldive, trova questo animale, ma che bello, è un animale particolare, non la sapete? È una leggenda metropolitana. Trovano questo animale bellissimo, lo accudiscono, lo tengono nel bungalow con loro, riescono a portarlo in Europa, non so dove sia in Italia, ma essendo una leggenda metropolitana vale per ovunque. Finché l'animale si ammala, chiamano il veterinario e gli dicono: ma dove avete preso questo animale? Ma alle Mauritius, o alle Seychelles, o dov'è, o alle Maldive. Ma è un topo. Questa è una leggenda metropolitana. Non so se qualcuno all'ascolto ha mai accudito un topo come se fosse un animale da compagnia. So che qualcuno l'ha fatto con una nutria, che non è esattamente un topo, ma più o meno ci avviciniamo. 349-238-6666. Voi siete qui, @radio24.it, la mail, ma anche il profilo Facebook. Matteo Caccia, io sono qui. L'animale da compagnia più assurdo che avete avuto. E già sono arrivati, sono arrivate già delle storie. Raffaella, un leprotto che mangiava le mandorle dopo averle sbucciate. Massimo, un riccio, mi seguiva dappertutto dopo averlo allattato. Barbara, Bobo, certo, perché poi i nomi, chiaramente, no? Anzi, guardate, scrivetemi che animale è con il nome, vi prego. Bobo, un piccolo piccione che visse in casa nostra per un mese. Il tempo necessario a mio padre di insegnargli a volare. Poi spiccò il volo. Gabriella, un pipistrello, per qualche giorno, tenerissimo. Ha proprio il tono questo messaggio. Che tenerone lui. Stava lì appollaiato tutto il giorno a testa in giù. Gabriella, no, Elena, un triops. O hai scritto male? Per fortuna hanno un ciclo vitale di 20 giorni. Cos'è un triops? Lo troviamo, adesso lo cerchiamo. Alessandro, un gerbillo. Cos'è un gerbillo, ragazzi? Ma è il nome proprio o il nome comune? Facciamo così, state lì un secondo, che tanto abbiamo veramente la possibilità di fare copia e incolla gerbillo e vediamo. Gerbillo, tipo un topiforme. Il gerbillo come animale, esiste un sito che si chiama gerbillo.com. Vabbè, 349-238-6666, appunto l'animale più assurdo che avete avuto. Io ho fatto un errore clamoroso per oggi, cioè che non ho acceso tutte le luci dello studio e non vedo niente. Aspetta, facciamo così, lo accendo al volo. Aspetta. State lì un secondo. Che tanto il microfono è acceso, ecco, così le spengo tutte, così le ho accese tutte. No, perché il problema è che poi, se no, non riesco a leggere bene, perdonatemi, il racconto di Paola. Ed eccoci qua, sono le 16:10 minuti, questa è sempre Radio 24, anche se non ci si allontana di solito dal microfono, ogni tanto capita di farlo. Abbiamo tra l'altro già caricato un video di cui vi parlerò a brevissimo sul profilo del programma, che a proposito di imprinting e di animali che fanno un mestiere che non è loro, racconta di un coniglio che si trova a fare una cosa che appunto di solito i conigli non fanno. Matteo Caccia, io sono qui. La storia di Paola invece parla di fatto di Brad Pitt, che è scritto proprio così, Brad con la E e Pitt con la I, come peraltro anche Brad Pitt ha la I, solo che Brad Pitt è un pulcino. Qualche tempo fa avevo un'anatra bianca, che un bel giorno si mise a covare tre uova. Visto che la cova delle anatre dura circa 30 giorni, decisi di aggiungere a quelle tre alcune uova di gallina, la cui cova invece è molto più corta. Dopo 20 giorni, infatti, cominciarono a nascere i piccoli. Il giorno dopo il lieto evento, però, contro ogni regola della natura, vidi la mia anatra passeggiare tranquillamente da sola per il cortile. Corsi immediatamente nel pollaio e feci un'orribile scoperta. L'anatra, forse per paura, aveva ucciso tutti i piccoli. Non contenta, aveva anche schiacciato tutte le uova che non si erano schiuse. Tutte, tranne una. L'uovo rimasto aveva un piccolo buco su un fianco e ormai era freddo. Piena di speranza, io raccolsi quell'uovo e, senza dire niente a nessuno per non essere presa in giro, lo tenni al caldo tra le mie mani e nelle mie tasche. Alla sera, incredibilmente, l'uovo si schiuse e uscì un piccolo pulcino tutto bagnato. Brad Pitt. Come l'attore, ha scritto esattamente come si pronuncia. Lo chiamammo così. Passò la prima notte in un vecchio acquario, con una lampadina che lo riscaldò e lo asciugò. Il mattino dopo era vispo e arzillo. Noi abitiamo in mezzo alla campagna, in una casetta, sì, da soli. Abbiamo tantissimi animali, abbiamo due gatti, abbiamo un cane, abbiamo animali strani, ha alloggiato qui un corvo, ha alloggiato qui un picchio, ma per poco tempo. Hanno alloggiato qua gattini piccolissimi che abbiamo allattato, pulcini, anatre, galline, un po' di tutto. Visto che l'avevo fatto nascere io, Brad Pitt mi riconobbe come sua mamma. Avete presente, no, le cose che si dicono sull'imprinting? Ecco, è tutto vero. Brad mi stava tutto il giorno attaccato e quando aveva paura mi saliva di corsa su per il braccio per poi addormentarsi tra i miei capelli. Abituato a stare in casa tutto il giorno, dopo un po' Brad si convinse di essere un cane. Festeggiava il rientro dei miei figli a casa dopo le scuole, tentava di rubarci il cibo dal piatto e poi la sera tornava a dormire nella sua cuccia. Sì, perché dopo un po', quando ormai era cresciuto e aveva le dimensioni di un pollo, gli facemmo proprio una cuccia, adattando all'occasione quella vecchia di un cane. Lui ci entrava da solo e io alla sera passavo per controllare che ci fosse. Mi avvicinava alla cuccia, bussavo sul tetto e lui mi rispondeva con un cocot. Pratit girava per casa, dentro, fuori, ce l'avevamo sempre addosso, probabilmente pensavo di essere proprio il cane di casa perché aveva una paura folle delle galline. Io gli avevo comprato anche 2 o 3 pulcini della sua età per fargli compagnia, ma niente, era spaventatissimo. Quando si trovava da solo, pigolava, proprio sentivo il richiamo, faceva pi, pi, pi. Quando lo chiamavo dicevo, ma Brad, cosa vuoi? Brad Pitt era l'attrazione del vicinato. Un galletto che preferiva il prosciutto al mais, che aveva paura delle galline, che se ne stava per ore appollaiato sullo schienale della sedia in cucina a guardare tutto quello che facevo. Una mattina, mentre mi avvicinavo alla sua cuccia, mi accorsi subito che non mi stava aspettando come al solito con la testina fuori dalla finestra. Mi avvicinai alla sua casetta e Brad era ancora lì, ma immobile. La testina appoggiata sopra un'ala e gli occhi chiusi. Sarò sciocca, ma mi sedetti per terra e mi scese una lacrima. Il nostro Brad Pitt, il gallo che credeva di essere un cane, se n'era andato. Ancora oggi, quando guardo quella cuccia, mi viene voglia di bussare e spero di sentire ancora cocot. Leggendo questo racconto mi è venuto subito in mente un numero molto strano di Lupo Alberto. L'avete mai letto Lupo Alberto? Beh, fatelo, è un fumetto italiano bellissimo, scritto e disegnato da un tizio che si chiama Silver, che poi è lo stesso che fece Cattivic. Se non avete presente, si trattava praticamente di alcune strisce ambientate in una fattoria dove c'era questo lupo, appunto, che tentava tutte le sere di entrare nel pollaio per portare fuori la gallina Marta. Ovviamente c'era sulla sua strada il terribile cane Mosè, che riempiva sempre di botte il povero Alberto. Ah, e c'era anche Enrico la talpa. Vabbè, insomma, se non avete mai letto nulla, leggetelo. E c'è una storia lunga con Lupo Alberto, che cresce un piccolo uccellino e gli insegna a volare. L'uccellino è orfano e non ha nessuno che lo possa crescere, per cui rischia di morire. E allora Alberto, dopo le iniziali diffidenze, aiuta questo piccolo uccellino, gli fa un po' da mamma, lo aiuta a diventare grande e a volare via. Solo che dopo poco un cacciatore gli spara e l'uccellino muore. E la cosa assurda di quel numero di Lupo Alberto è che Silver lasciò la storia a metà, incompiuta. C'è proprio un'ultima vignetta bianca in cui c'è scritto: scusate, ma l'emozione mi impedisce di andare avanti. Firmato Silver. E la storia del povero Brad Pitt, il pollo che si credeva un cane, mi ha fatto un po' quell'effetto lì. Cioè, quando Paola descrive il momento della morte del povero Brad, un pochettino in redazione a tutti ci si è spezzato il cuore. Ecco, per questo ho deciso di raccontarvi una storia che un po' c'entra con quanto abbiamo appena sentito, però è un po' più divertente. Ed è questa. Qualche tempo fa ha cominciato a girare su YouTube un video molto divertente. È ambientato in Svezia, per la precisione in una fattoria di un paesino che si chiama Garsbaken. Il protagonista è Champis. È un coniglio che si crede un cane pastore. Avete presente il film Babe, il maialino coraggioso? Ecco, se l'avete visto, avete già più o meno capito di cosa sto parlando. Solo che questo non è un maialino, è un coniglio. Insomma, sto coniglio, non so dirvi assolutamente per quale motivo, si è convinto di essere a capo del gregge di pecore che sta lì nella fattoria. E come farebbe appunto un cane pastore, le fa andare dove vuole lui. Gli gira intorno, le insegue, le indirizza. E ci sono due cose impressionanti. La prima è ovviamente la convinzione con cui Champis fa il suo lavoro. Che poi io non sono esperto di cani pastori, però mi sembra che le pecore di Garsbaken siano in buonissime mani, nelle mani di Champis. Mai visto un coniglio così dittatoriale. La seconda cosa, che forse è la più incredibile, è che queste pecore saranno almeno 5-6 volte più grandi di sto coniglio. Eppure, nonostante questo, anche loro, a lungo andare, sembra che si siano convinte del fatto che Champis sia il loro pastore. Che poi, ripeto, non sono un esperto di cani e tantomeno di pastorizia in generale. Però proprio non capisco come una pecora possa farsi comandare da un coniglio. Però da quello che ho capito, leggendo un po' in giro, non è raro che gli animali cresciuti in determinati contesti pensino di essere altri animali. E quindi smettono di agire come i loro simili e assumono caratteristiche e comportamenti di altre specie. E c'è anche un precedente abbastanza colto. Avete presente Tarzan, no? Un bambino che viene allevato dalle scimmie e che inizialmente rifiuta la sua natura umana per lanciarsi da un albero all'altro. Fa versi strani, chiacchiera con una scimmia di nome Cita. Beh, in fondo lui è ben più strano di un pulcino che pensa di essere un cane, no? Questa è la prima che vi leggo, a proposito di animali strani accuditi come se fossero animali domestici. Un ratto, Cristina, 9 kg. I miei compagni di elementari avevano paura. Ma dai, strano. Guardava la TV con me, fischiava e squittiva quando aveva fame. Andrea. Lombrichi, una salamandra che ho tenuto in una specie di acquario fatto da me per 2 mesi, poi l'ho liberata. Una salamandra è tipo una lucertola, no? Sono quelle gialle e nere, giusto? Però più grandi. Tanto che sarà grande, quanto una mano una salamandra, sì. La mia anatra muta di nome Keke, che mi fa l'uovo tutti i giorni. Un ragno, Enrico, morto durante le vacanze di Natale. Questa cosa che è morto durante le vacanze di Natale veramente mi riempie di tristezza, perché in un periodo in cui tutti festeggiano, il ragno Enrico ci abbandona. Attilio, un galagone. Qui ragazzi, io vi ringrazio per questi nomi assurdi, perché potreste chiaramente inventarvi qualsiasi animale e invece qua mi specifica. Un galagone è una proscimmia di 25 centimetri dalla vita notturna. All'epoca vivevo in Costa d'Avorio. E poi Martino, una gazza ladra che si comporta come un cagnolino. E poi ancora coniglia seminana, nome Mina, da Mina Vagante. Però vabbè, i conigli seminani sono un po' animali domestici. Caro Matteo, io vivo in casa con moglie e figlia e 2 belle tartarughe quadoregne. Sono 25 kg l'una e sono con me da quando vivo da solo. D'estate in balcone, d'inverno comode dal loro terrario in salone. Francesca Torino, ma 25 kg per una tartaruga è una roba... Cioè, sono tipo le tartarughe quelle marine, immagino. un pitone reale libero per casa lungo 3 metri. 3 metri sono ma scusa, ma un pitone in giro per casa, cioè cosa fa? Si nasconde, va dietro il divano, ti entra nel letto anche. Conviveva con il mio gatto. Va bene, ma noi siamo partiti da un pulcino, in realtà. Un pulcino che si chiamava Brad Pitt. E la prima cosa che vorrei chiedere a Paola è esattamente quello: perché Brad Pitt? Pronto, Paola? Ehi, sono qua. Ciao, come stai? Bene, bene. Grazie per il tuo racconto e per la tua storia, in parte struggente, anche se il pulcino, diciamo, noi ce lo immaginiamo vivo in questo momento. Dal tuo racconto ce lo immaginiamo ancora lì. Ma scusami, nei tuoi mi spieghi come faceva? Cosa vuol dire che ti si infilava nei capelli? Perché Brad in pratica è nato dalle mie mani. Ho tenuto l'uovo in mano tutto il giorno, e un po' in tasca, un po' in mano, e poi l'ho messo quando è nato la sera, l'ho messo in questa scatola, quegli acquari, sai, fatti come una scatola da scarpe. Certo, sì. E sembrava morto. Gli abbiamo messo una lampadina per scaldarlo, per asciugarlo. Però il battito c'era, respirava, il battito c'era. Sì, respirava, però non si muoveva. Era un po'... Sì, era proprio messo male. Invece si vede che la grinta c'era. Il mattino dopo era vispo e arzillo e ha visto me, la prima persona che ha visto. L'ho preso in mano e subito si è arrampicato lungo il mio braccio e si è infilato sotto i miei capelli. Cioè, perché probabilmente era semplicemente un posto sicuro, cioè lo immaginava come una sorta di nido, no? Una roba del genere, immagino. Dico cose a caso, perché non so la vita dei pulcini. Senti, quanto è vissuto Brad? È quasi un anno. Quasi è nato in primavera. Ma perché questa è la vita media di un... No, non sappiamo perché è morto. Ah, ma scusami, era un pollo o un gallo? E che differenza c'è tra un pollo e un gallo? Penso fosse un maschio, però non è vissuto abbastanza per poterlo distinguere. Quindi in realtà noi abbiamo così, di Brad, questa immagine antropomorfizzata, ma senza nemmeno sapere il genere di fatto. Penso fosse una gallina. Ah, però una gallina. Pulcino dava l'idea del maschio. In base pulcino, a cosa, Paola? Maschio. Dava l'idea del maschio, dai comportamenti? Sì, no, così, pulcino, maschio, poi qui da noi pulcino si dice Pit, si chiama Pit. Si chiama Pit, cioè in dialetto? Ecco, Pit in dialetto è un pulcino. Ok, ecco perché è Brad Pitt. E poi Brad Pitt è stato un punto, nome costruito intorno a lui. Beh, lo immaginavo, mi domandavo il motivo, però detto così, cioè mi sarei stupito del contrario. Come non chiamarlo Brad Pitt a quel punto, chiamandolo Pitt? In dialetto bellunese? In dialetto bellunese pulcino si dice Pitt. Senti, tu vivi in campagna praticamente, sì, Paola? Sì, campagna. Ma fai sei un agricoltore? O... No, abbiamo solo la casa in campagna e... Cosa fai nella vita, Paola? Dimmi? Cosa fai nella vita? Io lavoro in una casa di soggiorno per anziani. Ok, quindi il piccolo allevamento di animali è una forma di... Solo compagnia, ed esclusivamente compagnia. Che animali avete adesso, Paola, a casa? Ma ne abbiamo avuti di tutti i tipi. Ma in questo momento avete cani, gatti? Cani, gatto, abbiamo avuto le capre a mezza pensione per tutta un'estate. Cosa vuol dire mezza pensione? Nel senso che non erano nostre, ce l'hanno prestate per tutta l'estate e mio marito, sai, prendiamo le caprette per i bambini. E cosa ci fa? Ah, anche quelle di compagnia proprio, cioè per giocare con le capre. No, proprio capre normali, solo che avendo lo spazio, questo nostro amico... Perché dire di no, giustamente, avendo lo spazio, mi sembra, cioè, un buon motivo, no? Cioè una capra... Cosa fa una... Non ti dico i danni. E infatti, perché cosa fa una capra tutto il giorno? Mangia tutto, mi ha mangiato i gerani, mi ha mangiato quasi un centinaio di bulbi di tulipani, mi ha mangiato i meli, gli aceri. Un delirio ste capre. Una è entrata in casa, mi ha mangiato la fioriera. Tutte le piante che erano in una fioriera. Va bene, Paola, senti, io ti ringrazio tantissimo per la chiacchiera e per il racconto e in bocca al lupo per tutto. Grazie. Ciao Paola, grazie mille. Ciao. Ho un'amica che aveva un topo bianco in casa. Ma un topo bianco è una cavietta, quindi non va. Però chiamiamolo topo bianco. Voi siete qui. Ha una faccia simpatica e sorridente Paola nella foto che ci ha mandato, che trovate sul sito di Radio 24 alla pagina di Voi siete qui. È in un ristorante, immagino, perché c'è una bottiglia d'acqua davanti. Ha la faccia di quella a cui non piace essere fotografata, nonostante il maglioncino azzurro e una sciarpina al collo. Ha degli occhiali di... sembra una roba in lega leggera quasi, una roba da galleria del vento. E sotto i suoi capelli riesco ancora ad immaginare il povero e ormai fu Brad Pitt. riesco ad immaginarlo, perché in realtà ci ha mandato anche un'altra foto Paola, ed è una foto di lei, chiaramente non si vede perché è presa di spalle, e sotto i suoi capelli, accoccolato tra la spalla e i ciuffi dei suoi capelli, questo pulcino. Quindi riusciamo anche a vederlo, Brad. Magari la carichiamo anche questa foto sul profilo Facebook, dove peraltro abbiamo caricato anche due cose che sono... uno è il video di quel coniglio di cui vi ho parlato prima, cioè il coniglio Ciampis, che fa... è un cane pastore ed è veramente incredibile. E l'altro invece è un video in cui la scienziata di cui vi leggerò un breve passaggio adesso, che è una donna che ha dedicato la sua vita a studiare gli animali e in particolar modo gli scimpanzé, che si chiama Jane Goodall, racconta cosa separa noi dalle scimmie. Di fatto lo fa in un video di 9 minuti che sono i video di TED, per chi non li conoscesse, TED.com, dove ci sono le cose più interessanti che girano sul web negli ultimi 5 anni a questa parte, e lei lo racconta lì, ma lo racconta anche e soprattutto in un libro che si chiama L'ombra dell'uomo. Lei, Jane Goodall, è una etologa, antropologa britannica che è andata a vivere in Africa e si è messa a studiare gli scimpanzé, i comportamenti degli scimpanzé, e capire che cosa, no, ci rende simili a loro, loro simili a noi, e perché noi dovremmo discendere dalla scimmia, come diceva peraltro poi in quel pezzo comico meraviglioso, ma l'uomo discende dalla scimmia, vabbè, insomma, adesso non sto qui a farla perché non sono capace, però era molto divertente. Parlo di Guzzanti, ovviamente Corrado Guzzanti. Aveva 26 anni quando nel 1960 se ne andò sulle rive del lago Tanganyika a studiare gli scimpanzé. La cosa interessante è che lei chiaramente familiarizza con questi scimpanzé, che diventano in parte amici suoi, e ci sono tutte quelle immagini associate agli uomini vicino ad animali selvaggi che conoscete, no? Tipo quelli che hanno il leone, quelli che vivono con i lupi, e lei è di fatto sorella degli scimpanzé. E c'è un passaggio in cui lei descrive questo scimpanzé che si chiama Mike, e racconta come Mike riesce a ottenere la posizione di dominanza rispetto agli altri scimpanzé. E la cosa che viene fuori è che alla fine, proprio come noi, semplicemente quello che prende il potere o quello che diventa dominante è quello che fa semplicemente più casino. L'ascesa di Mike alla posizione di dominanza nella comunità degli scimpanzé può definirsi interessante e spettacolare al tempo stesso. Nel 1963 Mike occupava quasi l'ultimo gradino della scala gerarchica dei maschi adulti. Era stato l'ultimo ad accedere alle banane ed era stato minacciato, anzi attaccato, da quasi tutti gli altri maschi adulti. Al nostro ritorno, 4 mesi più tardi, però, trovammo un Mike completamente diverso. E c'è un incidente in particolare che mi è rimasto impresso. Un gruppo di 5 maschi adulti, comprendente il dominante Goliath, David Greybeard e l'imponente Rodolph, era impegnato in un grooming collettivo da circa una 20ina di minuti. Mike stava seduto per i fatti suoi a una 30ina di metri dal gruppo, che però adocchiava in continuazione mentre oziosamente si puliva il pelo da solo. D'un tratto, ma in tutta tranquillità, Mike venne alla nostra tenda e prese una tanica di nafta vuota per il manico. Poi raccolse una seconda tanica e, camminando in posizione eretta, tornò al punto in cui era seduto. Armato dei 2 bidoni, Mike continuò a fissare gli altri maschi e dopo qualche minuto cominciò a dondolarsi da una parte all'altra. E all'inizio il movimento era quasi impercettibile. Noi però riuscivamo a vederlo comunque. Gradualmente cominciò a ondeggiare con sempre maggiore vigore mentre il pelo si arruffava. Poi emise una serie di pent hoots, inizialmente sommessi. A quel punto si alzò in piedi e all'improvviso caricò il gruppo dei maschi battendo i bidoni tra loro sopra la testa. Questi, insieme al crescendo del richiamo, formarono il più impressionante dei frastuoni. Non c'è dunque da meravigliarsi che gli altri maschi, fino a poco prima tranquilli, se la diedero a gambe. Rodolph fu il primo maschio ad avvicinarsi a Mike più tardi, emettendo sommessi grugniti di sottomissione mentre si accucciava e avvicinava le labbra alla sua coscia. Poi cominciò a fargli grooming e a quel punto si avvicinarono altri 2 maschi, sempre grugnendo, e anch'essi gli lisciarono il pelo. Alla fine arrivò David Greybeard, che poggiò una mano sull'inguine di Mike e cominciò anche lui a lisciargli il pelo. Solo Goliath, rimasto seduto in disparte, continuò a lanciare occhiate in direzione di colui che, ormai, rappresentava una seria minaccia alla sua finora indiscussa supremazia. Si chiama L'ombra dell'uomo, il titolo del libro che, da cui vi ho letto un estratto, l'autrice si chiama Jane Goodall. Per capirci, lo scienziato che ha scritto la prefazione di questo libro, che si chiama Stephen Jay Gould, sostiene che i suoi studi sugli scimpanzé siano una delle più grandi conquiste scientifiche dell'Occidente. 349-238-6666, ho due cani della prateria, ho vissuto con Luana Liguana, un rettile che è arrivato alla lunghezza di un metro, il mio galletto americano, Chip e Chop, due passi ricaduti dal nido, Chip rosso pulcino, un altro. Poi, la differenza tra il gallo e la gallina si vede a 6 mesi, dalla cresta, grazie a Claudio La Vicenza. Per Matteo Caccia, a fine stagione perché non fai un libro che raccolga tutte le storie lette? Ci stiamo seriamente pensando, ma ne parleremo più avanti. Grazie a Tiziano Bonini, grazie a Federico Bernocchi, a Paolino Corleoni che è tornato con noi e a Margherita Ina. La storia di oggi era la storia di Paola e parlava di animali, quella di lunedì è la storia di Linda e parla degli imprevisti di viaggio. È decisamente più tardi del previsto e ho assolutamente bisogno di dormire. La temperatura esterna è sempre più rigida. Alzo il riscaldamento dell'auto, ma quando sento odore di bruciato lo spengo subito. Su questa strada non c'è anima viva. Se mi succedesse qualcosa o se dovessi fermarmi, non avrei nessuno a cui chiedere aiuto.